Il sabato del villaggio. 17:07, anzi in questo istante sono le 17:08, quindi ci cambiamo d'abito come facevamo sempre prima della pausa estiva. Lo facciamo ancora per questa terza edizione, terza stagione di RadioTube. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Daniele, pronto? Ciao! Bentornato! Pronto mica tanto, subito in diretta senza precampionato. Senza neanche riscaldamento, così subito buttato davanti alla al microfono. E alla vigilia della nazionale di Radio 24 che scende in campo domani. Domani sì, è una giornata pazzesca. Che abbiamo avuto Pino Insegno prima, mi piace l'idea sì, di questa cosa sulla voce. Tutti, piace, c'è una curiosità molto forte, perché come si fa, tanto è lunga come trasmissione, tutta sulla voce, storie legate alle voci. Cara. 2 ore e mezza di trasmissione, quasi un record, perché ne faccio del resto, tu le fai? Io so, tu sei Marta, mica no vabbè, io ne faccio 3, ma la seconda la facciamo insieme, Marta Cagnola, Daniele sì, quindi Bellasio, quindi è ancora più complicata per te, chiocciola fai Marta Cagnola, chiocciola però... di Bellasio, hashtag cancelletto sì. RadioTube per quella sì. che è la prima puntata, sto facendo rumore col microfono, per quella che è la prima puntata sì. della terza season, sì, quindi la numero, o la numero 109, centononna. Però tu hai già detto tutto, no? Ho già detto quello dell'imperdibile, hashtag, l'imperdibile. Detto, sì, è stata un'estate particolare, diciamo. No, sì. perché sì, molto particolare. Intanto sulla rete sì. le cose più condivise sono state sì delle spiagge, però mm-hmm. sono state delle spiagge molto diverse dal solito. Sì, quello sì. Cioè, c'è stata la foto del bambino, Ilan. Sì, una foto che ha fatto così scuotere le coscienze più di quanto avessero fatto tante foto in passato. Quella foto probabilmente aveva qualcosa di magico, qualcosa di ecco, particolare. No, noi non rifacciamo dibattito. No, potrebbe... esatto. Non... Bene che sia stato così. Bene. Beh, dibattere su cose di questo tipo comunque non è inutile. Vedere l'immagine di quella, l'altra cosa più condivisa, il video di questo è stato più condiviso, l'altro video non è stato tanto una roba divertente, simpatica, ma la cameraman, come si dice, la camera woman, beh, la giornalista, la giornalista dire sì, che insomma in quel video ha sgambettato un signore che poi si è scoperto peraltro essere un allenatore, parleremo tanto di calcio, quindi è stata un'estate particolare dove le cose più condivise in rete non sono state cose tanto estive nel senso canonico del termine. E parleremo di argomenti poco balneari che hanno popolato i talk show, ma prima vorrei festeggiare. Sì, io ieri sera non ho seguito la partita. No, perché che pareva stavi lì a Venezia, infatti tu sei nella vigilia del con Vasco. Ieri sera ero a seguire l'incontro con Vasco, scaricati il podcast no, appena no, ma appare io ti seguo su Instagram, ho visto delle foto bellissime, andate sì, su Instagram, sì, seguite sì. Marta e vedete un Vasco straordinario. Sì, sì, in grandissima forma, io ieri sera ero impegnata con Vasco. E quindi non hai visto la Vinci? Non ho visto la Vinci. Put the ball and run. Basta. Però continua a dire questa roba. Ascoltiamo la reazione della Vinci. Veni, vidi, Vinci contro Serena Williams. US Open, eccola qua. This is an incredible moment for me. It's amazing. It's like a dream, you know. I'm in the final. I beat Serena. Sorry guys, lei dice sono felice, ho battuto Serena, però sai, sei comunque a casa di Serena Williams, quindi all'11 qualcuno, settembre peraltro qualcuno applaudivano, sì, però poco. Qualcuno era un po' deluso, sì, tant'è vero che lei durante l'altro video dove si deve però interpretare il labiale, lei dice beh però adesso applaudirete pure me, virgola, ma dai, l'ha detto tutto, le diciamo, dice applaudite e adesso anche a me cazzo. Ha detto così. Di Radio TV. No, vabbè, ragazzi, l'ha detto così. L'ha detto, però era il labiale, non era certo. Magari ha detto, non lo so, cavolo. Ha detto cavolo, Rocco. Sì, gliela insegno io le parolacce. Allora, sì. Ha detto questa cosa perché, appunto, ha vinto, però adesso si pone un grosso problema. Ne parleremo tra poco perché parleremo io ancora di Vinci. Sport. Ecco, ma chi si tifa stasera? Io tifo Vinci, ma guarda che questa intervista, segnalo a tutti di andare a vederla su YouTube, è una delle interviste più belle a uno sportivo di sempre. sempre, intanto perché è vera, come hai detto tu, sorry guys. Poi gli dice, ma sai che gli scommettitori è ridata 300-1. Allora lei dice, ma quanti soldi abbiamo vinto? Esagerati, interrompe l'inglese, passa all'italiano, parla col coach, una cosa stupenda. Lo so, però quindi mi sa che io ti farò pennetta, poi dice, perché io sono massima. Sempre per gli outsider, quindi secondo me adesso che tutti aspettano la Vinci ci vuole un po' di affetto. Beh, anche per più la outsider pennetta, lei. Però guarda che poi dice una massima che a te dovrebbe piacere tantissimo, perché dice put the ball and run. Mi hanno chiesto, ma tu cosa hai pensato? Come batti la serie? No, niente, put the ball and run. Basta. Guarda, è un'ottima scelta di vita. Tu poi vedi quello che succede, succede. Sei minacciosa. A proposito, sì, di America. 11 settembre, sì. grandi celebrazioni, sì. Giusto così, Barack Obama. A proposito, Renzi che va a vedere la partita, attenzione, stasera c'è New York, sì, Matteo. Il sindaco New York. Marino era a New York, lui è tornato, va, ecco, Matteo. Renzi, polemica, va. Dibattito, anche questo dibattito lo lasciamo ai posteri. Invece Barack Obama ha mangiato il salmone, ma non è che ha mangiato il salmone a casa sua? No, non allora. In un posto qualunque. No, sentiamone un pezzettino, Barack Obama. Let's make a little camp here. Let's do we'll it. Cook us a lunch. Yeah, I'm starving. Okay, we'll see good. What you got. Well, Alaska is a land of bear and salmon. Allora, l'Alaska è una terra di orsi e salmoni, appunto. Renzi va a vedere Vinci Pennetta, che devo dire, qualcuno dirà, perché va a farsi vedere? Sì, ma Barack Obama, mutatis mutandis, sarà addirittura ospite di una puntata di un reality show, il primo no. presidente al mondo. No! Certo, è andato... Lui è famoso anche in Italia, Bear Grylls, è un esploratore inglese. Pensavo quello dei granchi che stanno là in alto mare con delle navi enormi. Lui è un personaggio che si dà sempre all'estremo e porta delle celebrities in condizioni molto difficili. Celebrity in chief, portate. Certo, esatto, celebrity in chief Barack Obama è che ha approfittato della sua, sì. del suo viaggio in Alaska per tante anche ragioni. Lì bisogna seguire su Instagram pizzosa, così vedete delle foto stupende di Obama in Alaska sui traghetti. E tra le tante cose che ha fatto in Alaska è andato da Bear Grylls, la trasmissione di NBC che si intitola Running Wild, e ha mangiato questo salmone, ma la cosa divertente era che il salmone era stato già mangiucchiato da un orso. Cioè Bear Grylls gli ha tirato ha tirato fuori questo salmone, no? E come questo si pezzettino, capiva che era mangiato? E perché era tutto sfilacciato. Ciancicato. Sì, e gli ha detto "Guarda, questo veramente l'ha mangiato un orso". E Obama l'ha guardato un po' così e gli ha detto "Sì, sarà però". Buono allora. Gli ha detto "Sì, ma ora lo cuciniamo". Sarà l'orso buono. O il salmone. No, il salmone. Il salmone. E Obama ha commentato "Beh, sì, ho pensato subito che un pezzo di salmone sarebbe stato perfetto, magari però meglio con un cracker". Perché non c'era il companion. No. Ma il fatto che la musica si alza vuol dire che dobbiamo andare il traffico? Vuol dire che sono le 17:15 secondi, 15 minuti e 46 secondi. E stai imparando Daniele Bellasio alla 109ª puntata di RadioTube. Tutte le indicazioni per chi sta viaggiando su strade e autostrade. YouTube. Rieccoci insieme, Daniele. Abbiamo sì. detto un'estate densa di notizie. Sai secondo me chi ha sofferto molto quest'estate? Non saprei. I conduttori di talk show che erano in ferie. Sì, perché erano bravi quelli che li hanno sostituiti. Sì, perché quelli che li hanno sostituiti erano bravi, se possibile anche più bravi. Sono un po' di parte. Sì. E si sono anche trovati belli, con tra l'altro. Però e gli occhi che abbiamo al telefono. No, vabbè, non è che la radio non si vedono, non si può dire, però ragazzi, che uomini. Comunque, interista. Grande estate per i talk show, perché mm-hmm. spesso l'abbiamo detto tante volte, insomma, d'estate il palinsesto, si sperimenta, si prova qualcosa di nuovo, poi si torna al vecchio, ma in questo caso sempre un po'. In questo caso, secondo me, questa è stata la scelta azzeccata. Allora, torniamo indietro di qualche settimana, il funerale show, ormai l'avevano parlato così, della famiglia Casamonica, questo è successo a In Onda. A parlare della mia cultura, quando parliamo pulitevi la bocca, non lavare china. Merino, ci faccia capire. Ho fatto qualcosa, ho passato una multa, ho pagato. Non stiamo a parlare del penale, qui stiamo a parlare di un funerale. Credete di conoscere Buzzi? Io non conosco nessuno perché siete entrato nel mio argomento, nella mia cultura. Scusi, riprendiamo la linea di studio, forse. Ho rapporto con la bocca, riprendiamo la linea. riprendiamo la linea in studio, perché ci è arrivato, diciamo, con un po' di ritardo, come dire, la pulizia della bocca con la varechina non rientra tra le cose consentite che si possono dire. Allora, bello, l'abbiamo detto, anche se non si vede la radio, lo posso dire, bello, giovanissimo, interista. Bravo, vabbè, ma uffa, è sottolinea. Che noia, ma che come ancora? Noia, non ne abbiamo ancora parlato, ne parliamo dopo. Che noia, vabbè, bello, bravo, di grandissimo successo, fatemi dire anche bravo David Parenzo, che è un nostro compagno di viaggio. Vabbè, lì siamo, Davide, top, siamo sempre Cruciani. Al top. Buonasera e benvenuto a Radio Tube a Tommaso Labate. Buonasera Tommaso. Buonasera, ciao Marta e ciao Daniele. Ciao. Se invece di intervistarmi volete rimandare quello che avete detto fino adesso, io lo riascolto molto molto volentieri. No, ma smentiamolo. Buoni, grazie. No, invece adesso litighiamo, smentiamo tutto quello che abbiamo detto. Ragazzi, è stata un'estate importante, Tommaso, perché sembrava che, sai, il talk show estivo, comunque, i temi secondari, i personaggi secondari, invece, da un certo punto di vista, delle notizie c'erano grosse e fuoriere di grandi dibattiti come questa, e dall'altra voi siete stati davvero bravi e avete fatto dei numeri davvero nuovi. Complimenti. Sono ringrazio. No, io poi l'estate sono particolarmente affezionato, anche perché, come dire, anche nel mio primo lavoro, cioè quello a Corriere della Sera, l'ho iniziato con una sostituzione estiva, e quindi sai, quando hai devi fare il brodo con la verdura che ti offre l'estate, devi saperlo, diciamo, anche con un po' di fortuna mescolarlo bene, per cui un'estate in cui mi sento un po' un lavoratore stagionale. Uno di quelli che è stato, però un po' un figlio di questi tempi, per cui sono molto soddisfatto di come è andata. Un poi calabrese siete... di Marina di Gioiosa Ionica, che però a questo punto d'estate non va al mare perché ti tocca andato lo stesso. Sono riuscito ad andarci un pochino prima e qualche volta dopo, però, come dire, ho rinunciato al mare per trovare questa avventura. Alla fine non avevo mai fatto una conduzione televisiva e i linguaggi ovviamente rispetto alla carta stampata sono un po' diversi, però ci abbiamo lavorato molto. Citavi prima il vostro anche collega David Parenzo e anche la squadra di autori che avevamo, Peppe Ciulla, Ivan Mazzoletti. Siamo riusciti a creare un racconto quotidiano che alla fine ha avuto, diciamo, un discreto successo. Nel racconto quotidiano avete anche usato, e in modo molto sincero e spontaneo, i social network, perché poi le trasmissioni televisive, abbiamo detto tante volte, noi a Radio Tube ci occupiamo dei social network spesso, e abbiamo detto a volte, una trasmissione televisiva appiccica lì un hashtag, dice due account e pensa di aver fatto. Invece voi avete raccontato, ci sono le foto, le cravatte, anche un po' quando pazziavate, no? No, è vero Daniele, l'abbiamo fatto abbastanza spesso, ma noi, come dire, abbiamo un uso dei social network, almeno io personalmente non so come si usano i social network, nel senso che vanno interpretati un po' come si interpretano tutti i mezzi di comunicazione. Ci devi mettere quello che pensi possa servire, che pensi possa interessare alla gente in quel momento, in quell'ora, senza però fare una roba che sembri spudoratamente falsa o spudoratamente finta. Anche noi, come dire, abbiamo attaccato un hashtag, da noi che attaccavano quest'hashtag che si chiamava In Onda la 7, che nessuno si filava perché tutti twittavano dicendo con l'hashtag In Onda. Beh, tu hai fatto anche rivetevelo, aziendale, abbiamo usato i social network come un flusso, come avremmo usato i walkie talkie da bambini. Ci abbiamo provato a intercettarne, diciamo, quello che la gente poteva volere, senza ovviamente tradire quello che noi pensiamo o vogliamo dire. Sì, però tu hai tentato anche di coinvolgere la gente che ti segue sui social network con vivetevelo, raccontando il fatto che vivevi questa esperienza anche un po', come dire, alla garibaldina. Guarda, io forse ho un'errata diciamo concezione della TV, cioè nel senso che, anche come per i giornali, come se trascurassi che effettivamente il tuo successo, il successo viene diciamo definito da quelli che sono i campioni dell'audio, cioè il 9000 penso siano persone in Italia che diciamo hanno l'apparecchietto che registra poi alla fine il consenso, il successo. Che io ne vorrei conoscere una volta. Ma tra l'altro questo poi ti apre una piccola parentesi, quindi io, diciamo, abbiamo provato a fare come si fa nei partiti politici, siamo andati a prenderci casa per casa, diciamo strada per strada, le truppe cammellate, come se ciascuno fosse, diciamo, un telespettatore in più, una zia lontana o un amico potesse, diciamo, contribuire al nostro successo. Sai, nei sondaggi per i partiti politici il campione è più o meno lo stesso, anzi forse più piccolo, però poi arriva un momento che ci sono le elezioni e uno vede se i sondaggi o meno hanno avuto, come dire, fortuna. Qua con l'Auditel non ci sono mai le elezioni, quindi è sempre l'Auditel che decide, però ciò nonostante noi abbiamo provato a prenderci un telespettatore in più che, come diceva Catalano, è sempre meglio di un telespettatore in meno. Ah, grande citazione televisiva, bravissimo Tommaso. Io vorrei leggerti un tuo t'inchioda, un tuo tweet di 3 giorni fa. I Casamonica, lasciati liberi di comandare una città per anni senza che nessuno alzasse un dito. E mo lo scandalo è se vanno in TV. Hashtag ma. E io adesso farei anche riascoltare un Vespa. Pezzettino. Se no, no, ancora da in onda a Casamonica. Io ho qualche precedente penale di qualsiasi tipo, però ho pagato e strapagato. Io mi associo innanzitutto col Travaglia, perché una persona è inutile fare polemico, come dice l'amico Salvino, che lui, il suo Salvino, se invece del padrino ha messo la Traviata come lui piace, oppure Nino Di Mamei, che sei un italiano. Io ho conquistato Roma tramite mio padre, che era un patriotto vero. I Casamonica ospiti delle trasmissioni televisive, anche se il vero scandalo, e adesso vorrei parlarne, è stato quello che è successo a Porta a Porta. Il padrino è un film, papà mio lo piaceva quel film e lo piaceva anche la musica, e noi quando lui è defunto l'abbiamo fatto come lui è desiderata. Vabbè, pure a noi altri ci piace la musica di Via col Vento, perché però diciamo domani è un altro giorno, è la politica, il padrino è il padrino. Noi figli siamo stati contenti per fare questa cosa così, perché lui lo piace, lui adesso delle su è contento, perché noi abbiamo fatto il funerale che piaceva a lui. Allora, questo è stato grande oggetto di dibattito, appunto, i Casamonica avevano parlato in tante trasmissioni televisive, collegati in tanti modi. Nel momento in cui un esponente della famiglia è ospite in studio da Bruno Vespa, succede il pandemonio. Tu hai scritto questo tweet, Tommaso Lavate, che è al telefono con noi 3 giorni fa. Interessante questa posizione, comprensibile. Ha fatto bene Vespa. Ha fatto bene Vespa? Guarda, al di là del Vespa ha fatto bene, perché diciamo sul più che il sì o no, il tema è il come, e sì. Su questo se ci arrivo. Allora, io parto da un presupposto, di cosa Monica sono una cosa che fa veramente paura. Io la prima volta che le sentii parlare è stato, diciamo, i primi anni in università, al 98-97, ero appena arrivato a Roma, stavo in un posto, in una discoteca, c'è una rissa tremenda, e un amico mio di Roma mi disse: ah, quelli là sono alcuni dei Casamonica, che non avevo mai sentito parlare. Da allora poi, diciamo, ho cominciato a capire che si tratta, diciamo, della famiglia che dal punto di vista mafioso, io poi conosco bene queste dinamiche perché vengo dal sud più martoriato da questo punto di vista, quindi ne conosco le regole, le liturgie, eccetera. È un fenomeno molto pericoloso e molto, diciamo, inserito in alcune, nel tessuto, diciamo, economico, sociale, sporco, fra virgolette, della città. Quindi un fenomeno mafioso nel vero senso della parola. E adesso il tema non è, non si tratta tanto di difendere Vespa, ma questa città è stata amministrata per tantissimi anni dal centro-sinistra e di più e dal centro-destra. Il fatto che il centro-sinistra adesso, il PD, si pongano il problema dei Casamonica che vanno in TV, quando la stessa città amministrata da loro, alla fine in questa stessa città hanno prosperato questo clan mafioso, mi sembra alquanto singolare, come dire, tra il problema del vederli prosperare e il problema del vederli in televisione, secondo me è molto più grave il problema di lasciarli prosperare. Poi sul secondo aspetto, su come sono stati, diciamo, ospitati da Vespa, sulle tante differenze rispetto ai modi che abbiamo scelto noi, sulle differenze ancora tra il servizio pubblico e le reti private, ci sarebbe da aprire un capitolo lunghissimo. Certo è che secondo me una politica che ha amministrato una città in cui questo fenomeno, diciamo, ha prosperato nell'assoluto silenzio, secondo me non ha il diritto di lamentarsi rispetto a chi che sia che dà, diciamo, una visibilità televisiva o l'intervista. D'altronde la storia anche recente è piena di grandissime firme del giornalismo televisivo che si sono messe a confronto con, diciamo, con il male, senza scomodare Indro Montanelli che intervistava Graziano Messina in luoghi che conosceva solo lui, addirittura se non sbaglio quando Messina era latitante, parliamo del grande, diciamo, del grande tristemente noto delinquente brigante sardo, Gio Marrazzo con le sua intervista ai capi di clan, ai capi Cosca in Sicilia per la RAI, ricordato come un grandissimo giornalista, non fosse perché ha firmato, diciamo, una delle biografie più importanti di Raffaele Cutolo, poi diventata un film di Tornatore. Quindi la grande stampa molto spesso deve mostrare questi fenomeni. Come li mostra, ovviamente, sta la sensibilità, la credibilità, l'autorevolezza di ciascuno, sapendo che poi ci si gioca la faccia. Nel momento in cui io e David Varenzo abbiamo deciso di fare una trasmissione, di accendere un faro su quella storia, avevamo perfettamente chiari i modi in cui dovevamo farle, e io, senza sapere quello che sarebbe successo, ero già tarato sul fatto che se uscivano parole che non si potevano dire, quelle là andavano stroncate senza se e senza ma, come è stato con il caso della Varechina che ricordavate prima. Abbiamo sentito. Io sempre da Alice nel Paese delle Meraviglie mi chiedo, ma se sono colpevole di qualcosa perché non sono in galera? No, e ma se sono, è cioè, difficile dividere. È una cosa veramente complessa. A me ha ricordato molto, e poi dobbiamo dare la linea a una brevissima pausa, mi ha ricordato molto quando 2004 Donato Bilancia, serial killer, andò ospite da Paolo Bonolis. Era una situazione televisiva forse più simile a quella, vabbè, insomma, il dibattito può ancora essere lunghissimo. Tommaso, ti teniamo ancora qualche istante con noi perché abbiamo ancora qualcosa da chiederti, perché una volta che abbiamo preso, che abbiamo catturato Tommaso Labate, anche lo vogliamo tenere. Sta finendo, quindi lui è un anno, se ne va, esatto, vorrei sapere se come ti è venuto. Ma niente, vabbè. Perché queste cose colte le so tutte. Però 17:30, sì, una brevissima pausa, andiamo. Tra poco ci ritroviamo con Radio TV. YouTube. Vorrei una bara fiammante, fuori la chiesa la mia faccia gigante, ed una banda che suona le note del Padrino, re di Roma. E questo era Dado, ve lo ricordate? Aveva fatto questo video sui social, appunto, con una parodia di Non voglio mica la luna, ispirata appunto al funerale show della famiglia Casamonica, del quale stavamo parlando poco fa, perché abbiamo ancora al telefono con noi qui a Radio Tube Tommaso Labate, dominatore dell'estate con In Onda. Tommaso, rieccoti. Eccomi, Marta, grazie ancora. Vabbè, ragazzi, qua proprio noi appassionatissimi, cioè io ero incollata. Poi mi dicono sempre che parlo bene degli ospiti, ma come è diverso, io chiamo quelli che mi piacciono. Ma non c'è come vi divide? Tutti noi chiamiamo, la verità è tutti noi facciamo così, se ed è anche piace, bene, perché dobbiamo chiamare. Piacere è una cosa piacevole. Ma come vi dividevate i compiti tu e David? Perché tutti pensavano, no, chissà. No, perché diciamo che con Cruciani come si dividono i compiti, cioè, è chiaro. Sì, abbastanza anche. A volte però giocano a scambiarsi. Guarda, noi diciamo eravamo i meno preoccupati, io e rispetto a quello che ci dicevano prima, perché molto spesso queste trasmissioni si costruiscono sulla contrapposizione dei conduttori, uomo, sì, donna, io e Marta, bello, brutto, come dire, di destra e di sinistra. Noi invece avevamo due maschi e poi soprattutto avevamo, diciamo, un orientamento, diciamo, politico molto simile, diciamo che una grande dicotomia tra progressisti e conservatori, diciamola così, noi siamo entrambi, insomma, dello schieramento dei progressisti. Eppure abbiamo dimostrato che comunque si può costruire, io insisto spesso sulla parola racconto, perché non mi piace né storytelling, narrazione, ci costruiamo un racconto quotidiano semplicemente alternando le nostre due voci in un rullo infinito di domande, cioè gli ospiti molto spesso non sono soltanto le facce, come dicono molti televisionari, cioè portate una faccia nota così la gente, cioè è anche quello che avviene in una trasmissione. Non volevamo risse, non volevamo finire nelle clippettine di Corriere di Repubblica per la cassetta oppure per qualcuna. Infatti noi abbiamo preso questi qua perché ma non con la, non erano le clip, non della, era la solita della lite tra politici. Quella clip Marta rientra perfettamente nella nostra, diciamo, visione, cioè perché sono dei fatti successi. Non siamo andati nelle clip perché litigavamo io e lui o perché c'era una battutina o perché ci cadeva la penna per terra. Volevamo soltanto un rullo infinito di fatti e di cose che succedevano, di racconti, di storie, di opinioni, di eventi, di fatti, di notizie. Ma una cosa politica, Labate, gliela chiediamo a crearlo. Tommaso, una cosa politica però te la dobbiamo chiedere, visto che sei un notista politico del Corriere della Sera. Ha fatto bene o ha fatto male andare a vedere la finale degli US Open? Stavo chiedendo questo. No, perché il dibattito politico, ormai il nuovo bipolarismo è questo. Guarda, sinceramente non vi posso dire, secondo me non ha fatto bene, anche perché anche diciamo nella, anche attribuendo nessuno, o meglio pochissimi gli attribuiranno la buona fede di cioè ha fatto male semplicemente perché si trova ad andare a vedere una partita in cui l'Italia vince comunque. Magari se ci fosse andata una sola delle due italiane in finale, la gente pensa che lui non ci sarebbe andato per paura che magari poi quella perdeva. È una win-win situation. Eh sì, è perché è Pertini contro Juan Carlos. Nell'epoca dei social network diventa un po' una sconfitta. Cioè se tu vai a Lampedusa, per quanto poco conta, paradossalmente non perdi mai. E invece andare soltanto a questa storia di oggi alimenterà il tormentone secondo cui Renzi alla fine va soltanto in posti dove si sorride. È troppa immagine rispetto alla sostanza. Ok, secondo me ha fatto male. Tra il bene e il male, secondo me ha fatto male. Chiarissimo. Allora, e quindi lo bello, bravo. Interista. Non usa storytelling, quindi sono ancora più felice. Cioè, perché non l'ha usato, basta. Ma l'ha usato. Però, no, però è un genio. Basta storytelling. Basta. Adesso basta non diciamo più storytelling. Tommaso, ti chiedo solo adesso, quindi il tuo rapporto con la TV, al di là cioè, di ti quella manca? Smani. No, perché tornarci. Di solito, detto tra noi, il giornalista di carta stampata che perde fa l'esperienza, un po' poi si innamora della chi TV. Scopre, Tommaso? Guarda, io sinceramente ho vissuto questa esperienza, diciamo, come se dovessi costruire una roba giornalistica. Dico roba perché non viene in mente altro. È stato per la TV, potrebbe essere per la radio o con l'alfabeto Morse. Per cui sono affezionato al prodotto giornalistico. Il fatto che sia andata in televisione, per quanto possa sembrare paradossale, è quasi secondario rispetto ad aver costruito una cosa giornalistica. Detto questo, sono stato felice di averla fatta e non soffro adesso che che il programma non c'è più. Vabbè, però noi torna, prima mi poi, sa che esatto, torna. Però noi mi lo sa rivorremo. Che torna anche qui a RadioTube. Tommaso, noi ti aspettiamo ancora e ti chiamiamo ancora. Ringrazio tantissimo tutte e due, mando un grande abbraccio a Marta e vi verrò a trovare a Milano. Dai, e che mando meraviglia. Un grandissimo abbraccio lungo 23 ore, bravo, cioè quelle che ci separano dalle 23 domani sera al mio amico Daniele. Ti mando la foto dal lo centro campo. Spingiamoci forte e vogliamoci tanto bene. E amiamoci. Voi, ascoltatori, continuate a vivervi RadioTube. Ah, straordinario, ciao, grazie a Tommaso Labate, a presto. Grazie, ragazzi, un abbraccio. Ciao. Ah, vabbè, questi ci ha aiutato, che parlano di calcio. Ti ha aiutato come conduttrice a voltare pagina, visto che abbiamo un grande calcio. Ospite no, dai, fra allora, poco. Parliamo di sport in generale, non solo di calcio, bene. Perché sai, io sono una signorina e a me hanno sempre insegnato che per le signorine il calcio è un po' come dire fischiare, non è chic. Sì, non quindi si non fischia, è che né a pranzo né a letto. No, non è chic, quindi parliamo di sport in maniera, perché ci sono delle belle notizie. Sì. Allora, certo. Vinci Pennetta. Aru, hai visto Aru? Aru. Tu hai segui visto anche Aru? Gli sport raffinati, certo. Ma certo. Aru è maglia rossa, certo. Ci siamo anche certo. Aru. Basket va benissimo. Sì, benissimo, speriamo, va bene. No, beh, allora adesso diciamo chiediamo, che ma finora, esatto. Finora tutto bene. Poi? Che bel momento. E poi riprende. L'Inter è prima in classifica. Riprende. La Juve è ultima. Riprende il palinsesto di Radio 24, anche... quindi ritornano tutti le persone alle quali siamo affezionati noi anche... e sono affezionati gli ascoltatori di Radio 24, quindi lui sa quanto bene gli voglio quando gli sono affezionata. Buonasera Giovanni Capuano, convocato. Ciao, convocato. Adesso avete, diciamo noi avete convocato, grande, siete un po' maliziosi, vi ho seguito in questi ultimi minuti, siete un po' maliziosi, cioè... a ipotizzare che ci siano personaggi pubblici, politici che vadano dietro i grandi successi sportivi. Ma no, ma e devo perché dirvi, e devo dirvi no. una cosa, mm-hmm. devo dirvi una cosa, che quindi anche per te ha fatto male, che questo parallelo tra Renzi e Pertini è una cosa che ha girato molto sui social, no? Sì, vedi, che a voi interessa, no, questa mattina no, ma nel senso che a me è venuto in mente, sai, ho seguito poco in questi giorni perché avevo un po' da fare, stavo sempre al cinema, così mi divertivo al cinema, però in effetti il grande leader della storia italiana che è rimasto nel nostro sì, immaginario, però lì l'Italia poteva perdere, esatto, però lì l'Italia e con la Germania si giocava persino di più, perché è un mondiale di calcio. Beh, però l'Italia poteva perdere qua, invece vabbè, insomma è così. E Giovanni, secondo te, è rimasto lui anche perché a Berlino nel 2006 non andò Napolitano, andò la ministra Melandri, sì, vero. Dopo lei il volto. E io vi dico che questa mattina mi sono permesso di rispondere ad alcuni follower su Twitter che facevano questo accostamento per finire per cortesia di non bestemmiare. Immagino anche che se presidente Pertini a Madrid avesse avuto a disposizione i selfie, i social, probabilmente avrebbe evitato. Chissà che cosa succederà questa sera a New York. Giovanni, ma tu quanto da fare hai a rispondere ai tuoi follower sui social? Perché sullo sport. E poi quando un esperto ancora di più. Quanto tempo ti prendono? Guarda, è un lavoro. Io fai conto che è il primo lavoro che svolgo la mattina. Io faccio una rassegna stampa, devo dire abbastanza seguita, tutta dedicata al calcio soprattutto, ma allo sport in generale. Ed è uno strumento meraviglioso che impegna tantissimo, che ha i suoi linguaggi e che ti costringe anche a qualche brutta figura, perché la verità è che poi si impara soltanto sbagliando, di errori io ne ho fatti tantissimi prima di arrivare, credo, a masticarlo in maniera sufficiente e a riuscire ad avere un dialogo proficuo. Però devo anche dire che senza non saprei stare, Sì, è un lavoro, ma è anche un piacere immenso. Sì, anche perché anche i feedback arricchiscono. Aiutano molto a vivere meglio. Molto. 17.45, diamo l'ultimo traffico. Appuntamento con il traffico, appunto. Gio, ci risentiamo tra poco perché abbiamo molte cose da chiederti in fatto di sport, di social, di fenomeni. A tra pochissimo. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo. Fluentis.com. Vi presenta... YouTube. E intanto mi arrivano sms da Venezia, perché qua ci sono le indiscrezioni, Valeriona vince. Allora, pare che sia quasi certo. Certo? Cioè, ragazzi, me lo danno per... Valeria, sì, Golino. Io sono molto contenta, perché in questo film lei è bravissima, brava, bella e simpatica Valeria, ma le indiscrezioni ci danno in questo momento è tornato Fabrice Lucchini, il francese, l'abbiamo detto nel GR delle 13 che era tra i favoriti per l'Hermine, e abbiamo detto anche che tra i favoriti c'era Amos Gitai, ma pare che Gitai sia partito ieri, quindi non è al Lido, pare. Mentre al Lido ci sono Paolo Trapero, lo dicevamo prima, il film del fidanzato di Violetta, il film El Clan, e Zhao Liang, che è il regista di Behemoth, questo film cinese che tutti sono corsi a vedere questa mattina perché si erano persi la proiezione. Tu l'avevi visto? Io l'avevo visto. Brava, sì, io le proiezioni sentivo, avvertivo certe vibrazioni. Guarda che poi sabato prossimo controlliamo se hai azzeccato di exit poll. Ma in realtà, guarda, questi exit poll non è che ci ho alla sfera di cristallo, i giornalisti, io quest'anno non lo sto facendo perché sono tornata per la diretta, per fortuna, vanno a passeggiare nelle hall degli alberghi e quindi capiscono, e quindi cerchi e si cerca di capire chi è rientrato. Ma torniamo allo sport, dopo l'agonismo del cinema, l'agonismo dello sport. Questa sera abbiamo sentito la Vinci, ma sentiamo anche la Pennetta. Par condicio, eccola. Dai. What does it mean to you? Everything. I mean, it's amazing, you know, it's something I didn't think to be so far to the tournament. It's amazing to be here today. I think I play really well. I mean, I don't know how to handle all the filo pressure. Migliore in inglese della Pennetta. Stavo pensando la stessa cosa. Filo migliore. Tutti e due ce l'hanno migliore del mio, ma comunque. No, però dai, si lanciava di più, più alla Renzi, più globbish. Allora, intanto chiedo a Giovanni Capuano. Per chi tifi. Tu per chi tifi? Guarda, io ho conosciuto la Pennetta, ci ho passato insieme una giornata, ragazza bellissima, molto non esagerare simpatica. Perché conosciamo tutti tua moglie che lavora a noi, dopo glielo diciamo. Tu mi hai chiesto un giudizio, quindi io non posso non tifare per la Pennetta questa sera, anche se devo dirti che la storia della Vinci è meravigliosa, perché la Vinci è sempre stata il lato B di questa generazione meravigliosa di tenniste che dal 2010 ci sta riempendo d'orgoglio, la Schiavone, la stessa Errani. La Vinci che ha fatto la leggenda nel doppio, e quindi lei è stata quella con meno talento, forse anche meno bella da vedere in campo, intendo, non è un giudizio estetico questo, eppure alla fine della sua carriera, perché sia la Pennetta che la Vinci sono abbastanza vicine al passo conclusivo della carriera, è riuscita anche lei a ritagliarsi in singolo lo spazio che fin qui le era stato negato. Voi sapete che qualche mese fa aveva rotto il sodalizio in doppio con la sua compagna storica, quella che l'aveva portata insieme a lei a vincere tutto, anche lo slam del doppio, e tutti pensavano che fosse l'inizio della fine. In realtà evidentemente era un rilancio, era l'inizio di una nuova sfida, perché Roberta Vinci voleva provare a chiedere agli ultimi anni della sua carriera qualcosa per se stessa, e ci ha messo davvero pochissimi mesi. Io tifo un po' Pennetta, però devo dire che se anche vincesse la Vinci sarebbe una storia bellissima, come voi avete bocciato l'inglese di Roberta Vinci. No, io non posso bocciare l'inglese di nessuno. Voi provate a parlare in inglese davanti a 1000 persone piangendo, e dopo aver battuto Serena Williams. Non battuto, stroncato, perché sì, quello di ieri è stato davvero un atto drammatico, visto dall'altra parte quello di Serena Williams. Giusto. Avete stroncato forse la più forte di tempi. Beh, io credo, ma che infatti, si può, Giovanni, anche scivolare sull'inglese. La cosa bella, io tifo un po' Vinci stasera, perché è la dimostrazione che nello sport, il tennis in questo maestro, mi ricordo Mats Wilander, a volte col carattere si riesce a sopperire al talento. Ma poi il tennis è uno degli sport da questo punto di vista che fa paradigma, perché nel tennis ci sono tanti modi per essere campioni. C'è chi è baciato dal talento, c'è Roger Federer che ha passato abbondantemente i 30 e continua ad incantare, e poi c'è chi invece si è costruito una carriera sulla regolarità, sono quelli che un giorno venivano chiamati quelli che si mettevano da fondo campo, i racchettoni, eppure ci sono dei fuoriclasse, gente come Borg ad esempio, che ha costruito una carriera leggendaria probabilmente senza avere il talento di tanti altri. Ecco, il tennis è uno sport meraviglioso perché è davvero uno contro uno, ci sono le racchette che sono tecnologia, danno dei vantaggi, però è anche vero che poi se uno riesce a tirare più forte dell'altro, a essere più preciso, più freddo e a correre di più per le 3-4 ore della partita, alla fine vince lui. Put qualunque sia il punto run di partenza. Assolutamente. Vabbè, non sono tutti così. Ci vedi sono che non parliamo sempre di calcio. No, allora, ieri sera io appunto non seguivo la partita, ma mi è piaciuto tantissimo vedere i social che erano diventati tutti tifosi tutti di tennis. Beh, una cosa tipico, molto molto ma bella. Ma non è neanche una cosa poi grave. Vorrei dire che questa sera sarà anche un grosso evento televisivo, sì, perché, e mi piace molto parlarne con Giovanni perché anche lui è molto attento a questi aspetti tra sport e televisione, sarà in chiaro sul canale 108, che vuol dire che effettivamente questi canali che di sabato saranno sera saranno presto la rivoluzione. Ricordiamoci che il gruppo Discovery sarà quello delle Olimpiadi, quindi Giovanni, siamo vicini a cose importanti. Guarda, noi siamo vicini a una rivoluzione. Io ho 43 anni e ho passato la mia adolescenza e insomma i miei primi anni lavorativi sentendo parlare del terzo polo televisivo che doveva nascere e non nasceva mai per mille motivi, è inutile adesso stare qui a parlarne. Beh, qui siamo oltre il terzo polo, cioè qui noi siamo davanti a un panorama televisivo che sta completamente cambiando, e come già accaduto quando Berlusconi scese in campo dal punto di vista televisivo, che puntò tutto sul calcio e si creò addirittura un torneo pur di mondialito, pur di mandarlo in onda, lo sport è un grandissimo veicolo, perché c'è poco da fare, gli ascolti si fanno per carità anche con i grandi film, si fanno con gli eventi di cronaca, si fanno con i talk show, con tutto quello che volete, ma poi è lo sport il driver maggiore di successo in televisione, e quindi non è un caso che chi si affaccia e prova a prendere queste fette di mercato poi lo faccio assicurandosi le Olimpiadi, entrando su questi eventi. Mi viene in mente anche il rugby ad esempio, che da un paio di anni va su D-Max, che era fuori da un certo circuito di cronaca sportiva e che invece si è presentato proprio come biglietto da visita con le dirette della nazionale delle Sei Nazioni, che sono anche un evento di costume. Vero, oltre verissimo che di sport. Io devo salutare Giovanni Capuano, grazie Giovanni, torna e domani, a trovare domani, presto. Tutti convocati. Voglio solo salutarvi citandovi il tweet che ha appena fatto Ivan Zazzaroni, We Aru the Champions, che è molto carino. Allora, domani la nazionale di Radio 24, come dice il nostro direttore, una domenica tutta nuova. Salutiamo Andrea Roccabella in regia, salutiamo Cristian Goldoni in redazione, saluto Daniele Bellasio che è qui Ciao, di fronte Marta. A me. Ci ritroviamo sabato prossimo con Sabato il Villaggio con Radio Tube, ancora insieme, a presto. Ciao.